Allora, le sto chiedendo di magari elaborare un pochettino di più sulla questione delle lotte contro le carceri e del ruolo che hanno svolto le donne storicamente negli Stati Uniti. Prima comincerà con descrivere la storia di come il sistema carcerario statunitense è diventato un sistema di prigionia di massa, diciamo. So, there's a historical context for women's imprisonment, which has to do with controlling populations that, that the American government or the powers that be. C'è una storia particolare negli Stati Uniti per quanto riguarda il carcere, per quanto riguarda come si è sviluppato un po' questo sistema carcerario statunitense. Allora, innanzitutto si può partire anche dalla fine della guerra civile statunitense del 1864, 1864, più o meno quella data lì, quando finì la guerra civile statunitense, cominciarono a introdursi nuove leggi per popolazioni, che in pratica bersagliavano popolazioni intere specialmente afroamericane, che comunità afroamericane che ovviamente non rientravano diciamo, nella logica di coloro che erano al potere, oppure che non potevano rientrare in una certa struttura, magari politica, economica, eccetera, secondo almeno certi criteri razzisti dell'epoca. E allora si cominciò a introdurre nuove leggi che erano specialmente ritagliate, diciamo, per comunità afroamericane, cui magari se si stava fuori di casa senza fare niente di particolare, soltanto sedendosi magari davanti alla propria casa, oppure bevendo alcolici in pubblico, si poteva essere arrestati o arrestate. Questo si chiamava il codice nero, nel senso che erano codici penali che bersagliavano le comunità afroamericane in particolare. Così cominciò in pratica già la carcerazione di massa, però che interessava soprattutto le comunità afroamericane. So these black codes hugely changed the color of who was in prisons because before the Civil War, slavery was the primary means of controlling the black population. Afterwards, incarceration became. In pratica si tratta di leggere un po' la storia del carcere negli Stati Uniti come una storia del controllo delle popolazioni, controllo della società all'interno degli Stati Uniti, cioè, a seconda dei mutamenti e processi storici. Cioè, prima della guerra civile, quando la maggior parte degli afroamericani si trovavano in stato di schiavitù, quello in pratica era il modo di controllare le comunità afroamericane. Quelle bianche invece era tramite le carceri. E dopo la guerra civile, quando ci fu la liberazione di massa di migliaia, centinaia di migliaia di schiavi, allora il modo di controllo degli afroamericani e delle afroamericane fu con l'istituzione di nuove norme, nuove leggi che penalizzavano proprio queste comunità e che in pratica provocò un mutamento netto nella composizione, diciamo, dei carcerati e delle carcerate, specialmente i carcerati all'epoca. Nel senso che da una prevalenza di bianchi e un pochettino di bianche in carcere la composizione si mutò in una prevalenza assoluta di afroamericani e afroamericane. Quindi ci fu un mutamento totale all'interno del carcere, connesso con questo nuovo contesto di controllo sociale all'esterno del carcere stesso. Per rincarare la dose, si introdussero addirittura anche nuove politiche per l'introduzione di carceri carcerati nel mondo del lavoro. In pratica, le prigioni divennero delle nuove piantagioni schiavizzanti, perché in pratica davano in prestito i carcerati per fare lavori, anche lavori di forza, per ditte private che si avvalevano di questi carcerati a scopo di lucro, pagando lo Stato una cifra magari anche irrisoria, magari un pochettino più alta, ma non sta, cioè in pratica era come una schiavitù reintrodotta dalla finestra. E da notare che negli stati dove non c'era la schiavitù, era stata abolita anche prima della guerra civile, già la maggior parte dei carcerati erano afroamericani. Quindi, cioè, questa tendenza già esisteva anche prima del conflitto. Imprisonment has also been used to control women's behavior. So at the in the late 1800s and early 1900s, as more women were leaving the household to work in factories. Qualcosa di simile accadde anche alle donne in generale, cioè un tipo di controllo sociale, cioè il carcere funge come uno strumento di controllo sociale, per quanto riguarda i rapporti di genere. Abbiamo già parlato come sono state introdotte le carceri per le donne, ma il problema si acuì notevolmente poi al fine 800, primo 900, quando molte donne cominciarono anche ad avere un ruolo più ampio nel mondo del lavoro pagato, diciamo, salariato. Quindi molte donne cominciarono in qualche modo a riuscire a liberarsi, diciamo, economicamente dagli uomini in generale, trovando posti di lavoro vari in fabbrica o quant'altro, officine, roba del genere. E quindi la risposta istituzionale fu di introdurre nuove legislazioni, cioè nuove norme fatte su misura per controllare il comportamento delle donne stesse, cioè, e che venivano soltanto applicate alle donne, nel senso che, per esempio, se una donna era magari accusata di ebbrezza, cioè di aver bevuto troppi alcolici, poteva essere sbattuta in carcere, mentre questo non valeva per un uomo. Se una donna magari era accusata di adulterio, poteva essere sentenziata ad anni di carcere, mentre invece la stessa legge non valeva per gli uomini. Lo stesso valeva per magari se una donna era stata scoperta, nel senso, cioè che si scopriva che una donna aveva una malattia trasmessa sessualmente, allora veniva messa in prigione pure, cioè infrangeva la legge ovviamente per adulterio presunto. Poi veniva rieducata e reintegrata nella società, in pratica dovendo sottomettersi a una rieducazione per diventare una donna, tra virgolette, normale, cioè docile, cioè. In pratica, cioè conforme alle aspettative patriarcali dell'epoca. Addirittura quando ci furono anche casi in cui in pratica una donna magari commetteva un crimine che in pratica è lo stesso tipo di crimine anche riconosciuto per gli uomini, tipo per esempio un furto, e veniva sottoposta invece a delle sentenze ben più lunghe di un uomo, perché con questa logica, con questo discorso, nel senso che Diceva che le donne hanno bisogno di avere più tempo in carcere per essere riabilitate, tra virgolette, nella società, reintegrate poi in seguito alla società, mentre invece per qualche motivo i maschi non avevano bisogno di essere riabilitati per un tempo così lungo. Quindi le sentenze si prolungavano per le donne con questi tipi di ragionamenti abbastanza assurdi, ma accettati all'epoca. So moving into present day, you know, more present day and what has led up to this phenomenon that we have of 2.4 million people. Allora, per arrivare a come si è venuti ad avere 2,4 milioni di persone in carcere al presente, al tempo presente, bisogna risalire al 1965, quando Lyndon Johnson dichiarò una guerra al crimine, come magari siete consapevoli. Quindi negli Stati Uniti si dichiara sempre una guerra a qualche cosa, guerra alle droghe, guerra al crimine, guerra, ma mai guerra alla guerra, interessantemente. Durante gli anni 60, come magari saprete già, sicuramente saprete, c'erano mo molti movimenti di rivolta, già anche dagli anni 50, specialmente tra le comunità afroamericane, c'erano anche rivendicazioni nazionaliste di comunità afroamericane, ma anche portoricane, native americane, cioè c'era un movimento molto, molto forte, e quindi Johnson giocò in pratica la carta della paura, che per ottenere consensi, per introdurre in pratica norme ancora più dure per incarcerare più gente. Mentre Johnson faceva la guerra al crimine, in pratica cercava di seminare paura, specialmente nelle comunità bianche, verso i presunti criminali di carnagione più scura, diciamo, o costruiti come tali, Nixon fece una mossa in più, nel senso che cominciò a connettere il crimine, il fatto di commettere un crimine, con qualsiasi tipo di manifestazione di disobbedienza. E in pratica facendone un mazzo. E cominciò una campagna politica in pratica improntata su questa presunta connessione tra rivolta popolare o manifestazioni per questa o quest'altra magari lotta e il crimine. E così facendo, preparando anche un pubblico già preparato a essere impaurito, a essere ancora più impaurito e a connettere in pratica qualsiasi tipo di forma di protesta il commettere un crimine. Lo stesso fece Reagan nell'82, certo che espanse la questione alla guerra alla droga, la guerra agli stupefacenti, cioè all'uso e allo spaccio di stupefacenti. E questo lo fece prima ancora che esisteva un problema veramente di stupefacenti, specialmente il problema della cocaina crack, e che fu introdotta veramente nel 1985. Quindi è come se spiarano un po' la strada, cioè preparavano il campo cioè introducendo varie norme e magari proponendo campagne di ogni tipo di sensibilizzazione allo spaccio di stupefacenti, all'uso di stupefacenti, prima ancora che ci fosse il problema. Cioè, questo per dire che ovviamente qualcosa ci covava sotto. E infatti, tra la soppressione in vari modi, con la scusa del crimine, di attivisti, di membri di movimenti di rivendicazione nazionale, di minoranza, eccetera, già si stavano colmando le prigioni, già cioè le carceri, già si stavano colmando a tal punto che ci furono anche rivolte, come per esempio quella di Attica e di altri coinvolte e coinvolti nella lotta. E quindi poi negli anni 80 si vide ampliata ancora di più la possibilità di introdurre ancora più gente dietro le sbarre con questa guerra agli stupefacenti. So all of these wars came at a time when economic conditions were deteriorating. In pratica queste politiche queste cosiddette guerre a questa o quest'altra cosa, furono introdotte per un motivo abbastanza chiaro, per prevenire, per in pratica rendere impossibile l'auto-organizzazione dal basso di comunità colpite dalla povertà a causa delle politiche del governo stesso. Quindi 65 si comincia con la criminalizzazione generale di ogni tipo di crimine, che diventa cioè crimine a cui si risponde con la guerra, e quindi anche rubare diventa qualcosa a cui si risponde con la guerra. Quindi si aumentano i carcerati e le carcerate con questo tipo di guerra, diciamo. Poi questo prepara ovviamente alla crisi imminente, perché prima del 65 e nel 65 non è che c'era una grande crisi economica negli Stati Uniti, quindi si preparava un pochettino, già si anticipava in pratica una possibile crisi che poteva portare all'auto-organizzazione dal basso, e quindi mettendo tantissima gente in carcere era come un atto di prevenzione. Lo stesso nel 73, prima ancora delle altre crisi economiche degli anni 70 e poi anche della crisi economica degli anni 80, un atto di prevenzione fu in pratica l'introduzione di norme di ogni sorta con la scusa di combattere lo spaccio degli stupefacenti e il consumo degli stupefacenti. Per in pratica per distruggere le comunità che sarebbero state le più colpite da questo tipo di problema, che poi non so se sia il corrente in Italia, ma si parla di un tipo di cioè questa introduzione del crack come progettata dal governo stesso. Poi uno può anche provarlo pure, cioè vedere anche delle prove come si svolsero anche le cose all'interno, per esempio, della CIA e dei rapporti internazionali, eccetera. So, moving into present day, now people of color are overrepresented in the prison system. The number of women being sent to prison is rapidly increasing. Allora, per riassumere un po' la ricchissima contestualizzazione che ci ha dato Vicky, in pratica tutte queste situazioni che sono state create con queste varie guerre, questo o quell'altro, hanno portato a una maggioranza odierna di persone di colore in carcere. È un po' sempre stato così, c'è un fattore regionale in cui c'è cioè nel sud degli Stati Uniti dal 1864 in poi si è capovolta un po' la composizione demografica carceraria, con una maggioranza di afroamericani, mentre invece prima era bianca. Nel nord è sempre stato un po' a maggioranza persone di colore, ma sempre c'è stata un po' una percentuale sproporzionata di persone di colore in carcere. Com'è che si è mantenuta anche questo tipo di carcerazione di massa, in pratica, specialmente di comunità di colore? Tramite in pratica tramite il razzismo, tramite delle politiche anche non ufficiali all'interno delle istituzioni legali stesse, in cui per esempio si dà discrezione totale a un magistrato per decidere se per esempio dare una sentenza più severa o meno severa, una che magari comporta un minimo di anni di prigione o di carcere, cioè è un'altra meno, oppure magari uno può avere la facoltà di, come magistrato, di optare per una sentenza di riabilitazione per abuso di droga oppure di mettere qualcuno in carcere per lo stesso tipo di crimine, ebbene, tramite questi meccanismi, certe volte molto più sottili, certe volte abbastanza evidenti, abbastanza chiari, anche ben studiati, perché ci sono anche molte prove in cui si vede questo nella pratica, cioè nei tribunali stessi, questa differenza di sentenze a seconda in pratica del colore della pelle. Questo ha consentito allo sbattere in carcere la maggioranza di gente di colore, e anche poi dagli anni 70 in poi, un aumento notevolissimo di donne messe in carcere, che si contavano da un paio di migliaia, sono diventate centinaia di migliaia nell'arco di un decennio e mezzo, dagli anni 70 agli anni metà degli anni 80, e sempre più donne anche di colore. Quindi, tramite questi meccanismi informali, istituzionali e altri tipi di meccanismi, in questa società si è arrivati a questa situazione incredibile: 2,4 milioni di persone, la maggior parte di cui sono di colore. Abbiamo già in pratica parlato di esempi di lotte che sono state capeggiate da donne negli Stati Uniti contro magari le prigioni stesse, le carceri, magari non per abolirle ma magari per riformarle. Per esempio c'è la rivolta di Bedford Hills, se volete leggerne, una rivolta che in pratica è lo stesso periodo della rivolta di Attica, ma non se ne parla molto, non è molto conosciuta. Un altro esempio di come le azioni politiche, le rivolte, l'organizzazione delle donne viene ignorata moltissimo, purtroppo anche nella sinistra, come si sa anche in Italia, purtroppo la stessa cosa viene tuttora, diciamo, praticata. Però questo lo potete magari leggere nell'articolo che poi includeremo, cioè di cui includeremo il lancio di parte del lavoro che Vicky ha fatto. Ha già scritto numerose cose, poi ne parleremo in seguito.